Y un fiume in piena, senza fine, mi copri e scopri come fossi un'altalena. Non domando sui miei fianchi bianchi e stanchi come te, segui me scivolando tra i miei passi, sono sassi dentro te, dentro me. Se non sei dentro acqua senza peso, senza fiato, senza affanno, mi travolge, mi scorre. supposed to live without